Chissà che darsi la roba retta di cattura. Bravo. Bravo, l'ho lasciata proprio dentro la scatola. Comunque c'è una scala da 200, sono 24. Buono, buono, ottimo, ottimo. Ma ho cominciato l'amplificatore, vai in chiave. Ah, no, va bene, va bene, va bene. Sì, 24 mi serve. Con la scala da 200. Andrà bene. Quello lo attacchi al coso, al 131, gli dai 2 watt e vedrai come la spinge quella radio. Ti grido. No, io sto andando bene. Non me lo sai, non mi aumentavo di l'ospite, non me lo mettavo. Poi stasera ero, sto provando la giostra, già acceso il computer, agitavo a bello la carrozza, più barato possibile per gli amici. Ma cago un poco e vengo le 6x200, ma io raggio un volo sopra, ma sto sopra le 3x4. Infatti alzato la città e da solo le 3x4, va Lassaro, non lo trattanno. Va bene, va bene. Fra, finisco, che ho mollato come ti ho sentito, finisco e riprendo. Abbi pazienza. Ciao. Tranquillo, tranquillo, io mi stavo facendo solo delle mie provette. Ma sono entrato perché per dirti che io ho sempre quell'RF gain e sei sempre, diciamo, fondo scala, dai. Quindi la radio sta andando. Sentiamo dopo. Fai, fai. Ehi, va bene, a dopo. Ciao. Appetito. Uia. Meglia. Ma il bari seduce bandito. Buonasera. Ah, tu mi ascolti da una parte e mi rispondi dall'altra. Io ti ascolto in 4 frequenze a te, ricordatelo sempre. Anche il telefono ascolto tuo. Lo so, sono controllato, porca miseria. E allora, una brutta notizia ho avuto stamattina. Tipo, opa. Ma ti sembra possibile se paghi l'assicurazione che devi dare figli di bagassa? Ma ti pare? Cioè, a me mi danno 2,50 e il resto devo mettere io. Ah, vero, perché il danno è quello. Io, datemi un attimino, sto finendo di mangiare e rientro. Sentiamo dopo. Vai, Fra. Non mi senti a me, non mi ha risposto. Ciao Fra, no, può darsi che abbiamo parlato in due e non me ne sono accorto, scusami. Non fa niente, fregate. Allora tu hai fatto una pulizia con la franchigia? Io ho fatto una pulizia che mi serviva il cane assicurato e basta. Cioè ho detto, se il suo cane morsica un bambino o una persona, ne stacca un braccio e il valore è di 350.000 euro, noi li paghiamo tutti, dal primo all'ultimo. Comunque va. Vabbè, noi siamo ragionati. Un po' da tutte le parti. Da tutte le parti. Non mi ha dato nessuno. Da sotto la banca, da sotto la cateria. E meno male. Dino. Uova. No, ascolta, mi ascolti? Dammi il controllo. Già ti ascolto. Ho capito una, dimmi. Ho detto che già ti ascolto, dimmi. Tu dammi il controllo, ho detto. Sto provando un baracchino che ho riparato. Come sto uscendo? Già va bene, Antonio, già va bene. Sicuro? Tutto a posto, sì. Non è che sono fuori frequenza, eccetera, eccetera. A un certo punto, non lo so, vedi tu. Quindi il canale 12, vabbè, 27105, quello qua è la frequenza. Volevo sapere solamente quella. Ti ringrazio, d'accordo, va. Adesso stacco questo e attacco l'altro. Ringrazio, Tino. Ok. A pigliarla le luci. Ciao va bene, ciao Antonio, anche a te. Va bene, non so se stava parlando sopra Antonio, forse proprio al Mike che stava un po' strappando, stava mancando praticamente, ma questo non so se stava parlando Antonio sopra. Comunque qua arrivi in fondo scala, Antonio. D'accordo, ti ringrazio. 5 minuti e poi rientro con la tua apparecchio normale. D'accordo? Ok, a fa poco. Andare, vai Franco. Capo. Anche tu non lo sa comprendirlo. Stava strappando sto quarto. Salve. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera. Stava strappando nuovamente. Ma quello il microfono, la radio già andava bene. Stavo strappando, Anto. Sicuro sì. Come l'ha fatto? Boh, mi sembra strano a me, anche perché mi è ascoltato a me, boh, chiaro, la verità, a un certo punto. Adesso penso di no, non lo so, magari non lo fa in FM, ma boh, magari lo fa solamente in AM, comunque sia. Adesso comunque sto provando, quindi in pratica sto uscendo bene o male. Adesso stavi strappando, ma deve essere che hai il PTT mezzo inchiodato. Non ho capito. Hai il PTT mezzo inchiodato. Non lo so, la verità non te lo so dire. È strano. Il coso è stabilizzato, il segnale, più che altro. Poi, adesso vediamo un pochettino. Poco fa stavo uscendo bene. Ho chiesto un controllo a posto. Va bene, là. Ok, io rientro fra 10-15 minuti, là. Così faccio un controllo a vedere cosa cavolo gli ha preso. È strano però, perché in FM non lo fa questa storia qua adesso. Quindi è solamente in AM me la fa. Quindi, vabbè, là. D'accordo, ok, volevo sapere se avete quello, più che altro il tutto, là, ti ringrazio, d'accordo, avanti, tanto riprendi tu, continuo. Capo, io. Boh, Antonio, secondo me quando è freddo lo fa, pure in bassa. Perché, vabbè, comunque sia, c'è qualcosa che devi scoprire, ma daccene tempo, non ti preoccupare. Prendetela con calma, Antonio, ragionaci su. Perché è qualcosa che non va, capito? Antonio, è rosso, a me lo fa, dopo 2 litri lo fa anche a me il rosso, fidati. Ho capito, rosso? Il rosso, lo fa il rosso, dopo 2 litri lo fa anche il rosso, quella roba lì, quella l'ha fatta a te. Il rosso di sera per tempo si spera, Boh, adesso vediamo un poco, potrebbe essere anche qualche cosa di totalmente diverso, la verità, anche perché c'è un'antenna cazzo, che a volte cazzo, balla da una parte all'altra, quindi a un certo punto, hai capito? Il discorso è quello. Quindi è come se manchi in pratica trasmissione e ricezione, è tutto lì. Adesso domani mattina lo controllo un pochettino, vabbè, adesso sto facendo scaldare, adesso lo metto tutta una volta acceso l'apparecchio, in modo da vedere un pochettino, e poi si metterà domani mattina come fare a fargli la riparazione, ok? Caramba, Antonio, tieni qua, con la, con cosa che vado a fare con la calma, tienilo con la calma e ci ragioni un po' su. Lo fa a freddo l'apparecchio, lo fa, perché poi quando scalda comincia a farlo più. Lo fa qui a freddo, e devi capire cosa è. Beh, se in 5 minuti non è che puoi saperlo, no? 2-3 minuti, quindi a un certo punto l'ho messo alla prova, hai capito? A un certo punto il discorso è... Hai visto che adesso lo fa molto, ma molto di meno. Ma stasera quando l'ho acceso, cazzo, la cosa allucinante faceva... Dopodiché, una volta che scaldava, tac, si metteva a posto da sola, hai capito? Bisogna capire cos'è, o qualche componente in perdita. Senz'altro qualche condensatore lì. Qualche condensatore in perdita, quindi a un certo punto, come scalda, vabbè, dopodiché, vabbè, adesso vediamo dove è il mattino. Non mi sembra vero, cioè le cose si trovano subito a un certo punto, quando scaldano, capito? Vabbè, a dopo, già rientro fra poco con che, vuoi da, non c'è problema. Aspettate che vado a girare il cinghiale, se no fugge. Spara, Uti, spara. Oggi leggero, mangio, oggi mi faccio male. Yes, yes. Oi, oi, oi, va bene, va bene. Antone, buttagli un po', mettilo dentro se che lo di varecchina e vedrai che gli passa, Metti varecchina, acido e CRC. CRC abbondante e gli passa tutto a quella radio. Ciao, che Romeo. Ciao. Ah, io capisco, se una scena a semi, la verità. Comunque sì, vabbè. Fala come fai tu a un certo punto, vabbè, a parte non me ne frega niente di varecchina eccetera eccetera, ma comunque sia, non siamo cazzo facendo impianti, quindi a un certo punto, adesso rientro, con che minuto siamo a posto, 2 minuti. A meno con quello varecchina non è usato. Sì, ma sembra un cubarmeroso, capita, non si vuole manco a buffonare, boh. Fai con tranquillo. Mica sono scherzato anch'io, non ti preoccupare, non mi sono offeso, quindi tranquillo. Cos'è che vai? Ma perché mi senti a me? Niente, che ti sento, tranquillo, ti sento. Sto usando un apparecchio che sto riparando, scusa, vuoi che non ti senta? Ma stai riparando, mamma mia! Mamma mia, mi stavo bruciando da gola! L'altro, mamma mia! Cazzo! Manca solo se posso riparare le baracchine, cazzo! Ma va a cuffia! Per quello cazzo! Adesso mi faccio il coso! Non riparo più niente a nessuno! Almeno cazzo sono tranquillo! E nessuno mi dice niente! Vabbè, aspetta un attimo che riprendo con l'apparecchio normale, con 140. Ma che radio stai aggiustando? Dimmi un attimino. Ma la radio si acconsenti, baccari dai, io nostra signora mia, cosa la si sa? A elettro dove sta gente la roba? Vai, va. Un elettro. Ah, io invece non mi cucca, mica. Tino! Io mi giro il cinghiale, così non si diventa un forno. Vedete, giro il cinghiale, che è con te ne maracchini. Non me la fai su. Gianni, qua ci sei. Gianni già si mendi, forse, un bel. Vabbè, succede. Alto! Ma com'è la finalizzina? Ehi, no. te è bravo già, non è così, no? Adesso aspetta a fare queste cose. Oh. Però che deve capire dove è il problema, perché quando è il 60, non quello, non il 48, quello che c'ha meno canali, come si chiama, il 68, è che quando a freddo fa questo difetto, poi dopo parte bene, capito? L'apparecchio, adesso c'è qualche componente in perdita, cioè. Ecco, quindi vabbè. Ci riuscirà, ci riuscirà. Sì, domani mattina con la calma ragiona un po' più bene. E uno sarebbe più libero. Sì, vabbè, va. Va bene, dai. Avanti, avanti. Ma che problema gli dà, perché? Allora, praticamente quando è freddo, come si dice, quando l'apparecchio è freddo, va in tilt, quando schiacci la portante, va in tilt, capito? E fa... Dopo, un po', si rimette a posto e fa bene, capito? Lo fa solo a freddo. Noi sai da bedami, tu devi guardare le cose nei, diciamo, la corrente in alimentazione, ma non nella scheda, devi guardare la corrente in alimentazione nel transistor, sia in ricezione che se vuoi uscire lo scoppioli. Non è che lo fai, o col tester, devi prendere il manuale servizi e fare delle misurazioni, non è che lo risolvi così a occhio. Ti dico, il tester prendi e bisogna fare delle prove a freddo, quando lo accendi, a parte il fatto che non ci deve essere problema né a freddo né a caldo, quelle radio devi accendere e devono andare. Poi sì, scaldando, ma davvini cosa cagli, non è che un valvolare. Lui deve prendere, deve fare delle misurazioni con l'oscilloscopio, andare nel manuale utente o manuale servizi e fare delle misurazioni. Col tester e poi andare a fare una regolazione nelle bobine variabili se c'è da fare qualcosa. Non è che piglia e controlla così a casaccio, intanto non si vede nulla, frate indovino, non si vede nulla, vai fra. Ecco, vediamo tutta la che tipo di sovrattensione pure trattende, dai. Se trattende sovrattensione buona, gli avrà fatto. Ecco, siamo tutti professori qua, siamo tutti professori, quello che c'è vite grande, quello a punta, quello a taglio, in ferro, non faceva niente. Tu le radio le guardi con la mazza dello scalpello. Tutti i tecnici sono. va bene. Lascia rubà, se non fate il bicio, lascia di rubà. Signori, io faccio un attimo di bianco che... Dai, sto facendo roba qua, sentiamo subito. Vai Tino. Un braccio di ferro, mi senti, Gavino? Io sono entrato, ma che ora sono qua? Chi è? Avanti. Beh, Gavì, com'è? Allora, com'è? Ti sento troppo col microfono accartocciato. Davide, allora? Mi qua con Gianni sono, stavamo parlando, mi stava dicendo... Domani devo salire a Sassari, ci passo da Fugiano e vediamo cosa c'è. Eia, gli ho mandato il messaggio, guarda quella roba e prendila. Se ce l'ha, prendila, da. E poi scendendo... o me la lasci nella cassetta delle lettere, o perché sicuramente non ci sono, mi lasci tutto nella cassetta delle lettere già, così vediamo un po' di rimpristinare. Braccio di ferro, mi senti con il microfono accartocciato, forse arrivo troppo forte lì da voi, guarda che c'è l'antenna che sta vibrando. Sì, arrivi forte, arrivi a fondo scala qua, mi segna la lancetta. Vabbè, il braccio di ferro che ho conosciuto io non è lui. Infatti, quel braccio di ferro è di ottava. Abba, ci arrivo, si dopo, si do, ti giro l'antenna. Scappa, salutone amico, che non l'ho mai sentito. Antonio, va questa. Sì, a chi l'hai imbrigato, là? È probabile che sia imbrigato davvero, me. Ma sei fratello di Gianni? Sì, sì, sono io, Braccio di Ferro 2. Ma sei aggiunto un numero che è Braccio di Ferro solo uno ce n'era. Va bene, ciao, da, ciao, ciao, Tino. Un Tino? Uova. È morto quello che sai, tu conosci tu. Ehi, la una vita, poverino. Capo, sì, sì, sì. Poi, bene, nera. Chi è che c'è rimasto? Tu. Capo, ho salutato all'amico, ho salutato che... Ma non l'avevo mai sentito, Braccio di Ferro, così è. Saluto l'avrebbe sentito, da questa parte è Antonio. Davide, beh. Sì, magari si è andato. Ha preso sorpresini, infatti. Davide, non entri. Niente, niente, no. Ha mollato, ha dato il colpo importante, ha mollato. Sicuramente, dai, è proprio la modalità d'antenna mista, lo vedi, anche lui che ascolta col microfono, che ci ascolta troppo forti, sicuramente è proprio una cosa d'antenna, proprio al tipo dell'antenna che fa anche la ricezione, boh, strana, perché non è possibile, non è possibile. Vai Franco, puoi rilanciatino, io faccio 5 minuti di bianco, poi riprendo subito. Ehi capo, adesso mi sono abbassato come potenza. Vieni a vedere, Davide, ci sei ancora? No, Fra, ma non è questione di potenza, è proprio questione di radio. No, ma qua stai arrivando bene, qua stai arrivando bene. Se è proprio la tipologia dell'antenna, te l'ho spiegato stasera. Quella è una 5 ottavi senza radiali ed è un boh. Io gli avrei fatto una modifica, gliela avrei messi. Perché la Game Master lavorava a mezz'onda. La Game Master lavorava a mezz'onda. E non v'è nulla di là. Va bene così, ti rilancio Franco e poi fai girare. Mi pomponi entrato l'arma a guerra, attenzione, attenzione. Io ho visto che è un disastro, vai Fra. Non ti preoccupare, c'ho già la base, c'ho pronto a partire. Avanti. Sera. Vabbè. No, io sono alle prese con... mi stavo per scappare, infatti ho tirato un altro tiro, buono a terra. Adesso le sono ammorbidire. Tu sei disgraziato che Gavino comunque, eh. Cosa c'ho? Gavino è disgraziato. Ciao Franco, ciao a tutti, buon pomeriggio. Comunque, per l'amico Gavino, ce l'ho io una specie di stelletta che si attacca sotto con sui radialini. E magari posso affittare quella a vedere se recupero un po' di guadagno. Ma di quell'antenna lì perché era? Di quando l'hai comprata? No, l'avevo preso da AliExpress e ce l'avevo attaccato sotto l'antenna a mattone piccolino. Ed è una specie di ghiera rotonda in ottone in teflon nero e c'ha 3 radialini grandetti da 15 cm e 3 da 20 mi sa. No, già di lì ci vogliono radiare almeno un metro e 20. No, non è quello, no. Non è quello. Non è quella, a te quello che ti manca in quella roba lì è proprio la base della ricezione. Almeno che bisogna prendere in considerazione anche il manuale di istruzioni e metterla a una certa altezza a terra, che magari il piano di riflessione glielo dà al tetto, non lo so. No, non ho mai trattato con l'antenna, ma una 5 ottavi senza radiali. È una cosa un po' strana, è una cosa un po' strana. Vai Antonio, le prendo subito. Allora, il mio parere è questo, io da quando l'ho vista, siccome quell'antenna la conosco a mezza, quando l'ho vista io, mi ha detto, è in terra, è travagliata in terra questa antenna, è troppo bassa, ci vuole un po' più di palo, quelle antenne devono lavorare in alto, se no non lavora con l'antenna. Non erroga nulla, capito? Il problema è quello, di quelle antenne lì, che ha bisogno un po' di altezza, un po' di quota, se no non andare. L'Ubaru è troppo basso, se tu li metti il palo come li devi mettere, vorrà che cambia la giorno e la notte, cambia. Grappa, grappa, dai, quando farà buon tempo provvederò a aggiungere gli altri 2 metri di palo. Te lo sto dicendo, non è una cipolla. Se tu avessi usato una cipolla, c'è che la fora anche a bassa quota la fora. Con quella non ce ne sono, non ci sono problemi. Non ci sono. Però quella è a terra, non bisogna di un po' di quota, non bisogna di salire. Se no non lavorano, non hanno, non rendono, capito? Dov'è il problema? Avanti, io... Uff, ma non mi viene. Franco. Ecco. Ma quelle sono antenne fatte, anche se ciclo ottave, è fatta per, senza radiali. Non lo so, per me rimane un po' sorda quell'antenna, tipo l'antenna rimane, poi non lo so, molta gente dice che ce l'ha e l'ha sempre avuta e funziona bene, però con Gianni non va bene, perché riceve molto più basso di me. Signori, io mi devo allontanare, dai, sentiamo più tardi se ne avete voglia, se no niente, ritenetevi già salutati, dai, a più tardi. Ciao Tino, ci sentiamo, al limite più tardi, avanti a tu. Sì, ce lo sentiamo, avanti tutto. Ehi a te, io sono qua, io fai chiamata anche là e sono qua, sto facendo roba, buona cena. Ehi, buon tutto. Così che quel tipo di antenne è un casino farle rendere, no, si alzano i tamburi, bisogna stare attenti pure con i venti, anche no, sono un po' debolucce, sono, bisogna stare attenti anche con l'assemblaggio, perché qualcuno le si troncata in due. Non è un'antenna che avrei comprato io, chissà che va giù io, chissà la signora antenna. Chi ce l'ha ci stanno un po' tutti soddisfazioni, anche qualità prezzo, guarda, questa GPE e quella della Midland che sono quasi uguali, a 3 radiali, che sono piccole, non sono molto pesanti, cioè piccole, oddio, i suoi 6 metri, quasi 7 metri di antenna, so. Queste qua, sembrano così ma rendono parecchio. Cioè, e sono anche robuste, la verità, ce l'ha anche Marco, ce l'ha 12 anni, non ci è mai salito sul tetto a fare manutenzione. Io ce l'ho 2 anni e funziona benissimo. Queste sono buone come antenne. E poi ce n'è un'altra, c'è anche la Gipol, la Grazioli, la signora antenna. Cioè, sono delle, di tutto rispetto. Quelle Game Master sono un po' così. E poi solcia. A voglia. Scappa, avanti. Ma, è sotto a chi tocca, dai. Comunque io, ragazzioli, la verità non mi piace manco morto. Il discorso è quello. Poi, ognuno, anche della manta, va la mantova l'ha avuta parecchi anni fa, anche la direttiva, Tino lo sa, quindi a un certo punto è finita l'era di installare antenne da 3 kg, 3-4 kg, hai capito? Cioè abbiamo, io ho 60 anni, 63, quindi... A un certo punto non ci salgo più io sopra un palo, io penso non ci salga più nessun altro in un palo cato da 6-7 metri, più 3 kg di roba, cioè palo d'acqua, non palo telescopico, palo, quindi a un certo punto, comunque sia, ognuno... può fare quello che vuole. Io ormai ho finito io, mi è costato 3 televisori e il quello di casa e tutto il resto, quindi a un certo punto c'era appena in culo la mantova, la gazioni, quello che è. Adesso d'ora in poi mi metto un'antenna leggera, tanto non c'è vato da usare, quindi a un certo punto, una volta sì, ma adesso no, tutto lì. Allora sei campendo Antone, 62 anni vai. Ah, più bene, così da chi si impone. Sì, 62 anni, cioè, certo. Ah. Vabbè, chi sei campendo Antone, 62 anni vai. Ehi, certo, perché? Qual è il problema? Scusa, 62 anni e mi sento di non usare più, a un certo punto, antenne che in pratica cazzo pesano più di 3-4 kg, il discorso è quello, al piazzarmi era solo, più il palo dell'acqua, non lo so io, 3-6, a un certo punto e sono 7. Oh Antone, l'altro giorno ho trovato una persona, mi ha parlato bene di te l'altro giorno, lo sai? Lo so, ma ormai ho finito di... Ti giuro, potrebbe dirti quello che ho fatto io, installato io, eccetera, eccetera. No, ormai ho finito, non ne faccio più lavori del genere, la verità. A giovedì non me ne frega più niente, capito? Faccio solo i lavori per me e basta. È finito tutto, arrivato a 63 anni, quelli che c'ho, non me ne frega niente, né di uno né dell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Faccio solamente le riparazioni per me e tanto meno e anche per installazioni per le antenne, per me. Tutto lui. Mi dispiace per gli altri, magari si offendono, eccetera, eccetera, perché ero bravo. L'unica persona, CB, che faceva le riparazioni come si deve. Però adesso non le faccio più, la verità, non mi interessa più la verità. Tutto lì, senza offendere nessuno, la verità, senza offendere nessuno. No, già lo sappiamo, dai, che nella tua carriera del tecnico sei stato sempre bravo. E vai, ha fatto giorni pasticci. Che non è vero, finiscila. Andava da quelle signorine a piazzare l'antenna. E vai, ha fatto sempre pasticci. No, non ci credo, neanche molto che me lo dici davvero, lo sai. Vai. Dai, sentiamo dopo. Fra, sentiamo là. Lo sai cosa è, che tante cose buone le ha fatte nella sua vita, ma la gente non lo pagava mai, i delinquenti. Ma come, mica c'è gente strana, mica, vabbè, ha avuto gente, tra lei scopposta e cose del genere, cazzo, secondo te, cazzo, l'unico coglione che sono stato io, cazzo, sono stato io a avere lei scopposta, il discorso è quello, se avessi saputo che... Aveva cazzo fatto tutti gli indirizzi, cazzo, tutti i CB, eccetera, eccetera, e invece non l'ho fatto, cazzo. A te le immagini, cazzo. Ma va, fanculo a me, cazzo, qua. Sì, Antone, da me ne fa tutti i canti, non ti preoccupare. Sì, ma come... vabbè, adesso sta scherzando quello. Ma a un certo punto... Se mi avesse detto quel periodo lì, cazzo, avrei detto tutti i nomi, i cognomi, eccetera, eccetera, Cazzo, no, a casa mia tutti, tutto è casa mia, cazzo. In via Vadabba, cioè no, non, è via, non in via Vadabbasso, in via di Zedu, quello che era. Cazzo. Tutti i cibi, camionisti, quello che erano, cazzo, eccetera. Tutti lì, cazzo, erano. Porca miseria, cazzo. Non ne mancava uno, cazzo, a quelli dell'esco posto qua, ti giuro. A chi tu vedi, bisichini, rusori, cucurivotti, riardi, e punifi rugasco tutti quanti, così sei ducariti, non vi vedi mai, allora potete già chiamare. Guarda, ti giuro, non ti sto dicendo cazzate, la verità, perché non ti sto dicendo cazzate, però l'unico CB che sono stato in pratica inculato, cazzo, dall'escopo sono stato io, hai capito? L'unico in via Rizzetto, tutti i CB che arrivavano di lì, uno per uno se li segnavano, cazzo, nome, cognome, eccetera, eccetera, e si controllavano tutto, non ne mancava uno, hai capito? Sembravo io, cosa ti posso dire, cazzo? Dentro una reale, cazzo, tutti quanti, uno per uno, cazzo, si ricontrollavano. Fantasma, se avevi conosciuto un fantasma, era io sotto a casa tua e ti avevi avuto l'abortante e ti avevi fatto cifra di gambo. Ui, ma com'è che all'epoca aveva povero braccio di ferro, metti bugna e morto gli spinaci che va via, partiamo a basso a tutti. A Sorso, scusami, ma c'è vero abitava a Sorso, io sto parlando di CB, di Sassari, sto parlando, quelli che venivano tutti i giorni, camionisti, eccetera, eccetera, a un certo punto, ma non è che la colpa mia, no, scusami, se venivano l'escoposto e si controllava tutti i nomi, cognomi, eccetera, eccetera, colpa mia era, gira, buh. Cristo mi pare che era Falco Rosso, tu non hai conosciuto a Falco Rosso quando si è accuto il gabbara di Renia e si è acciarato il comandante e gli ha detto a vedere come mai era in alto mare, chi gli ha detto che era vende boi per pastelli e pure l'assicurazione, se no ha detto che scappava la vacca e gli dava lo dato. Ah, certo, niente, guarda che io quel periodo lì lavoravo non c'è da niente, lavoravo io quel periodo lì, quindi è una cosa totalmente diversa, hai capito? Ne ho salvato più di uno di CB, ne ho salvato ma più di uno, hai capito? Quindi è totalmente una cosa diversa, tutte parlano degli anni 90, 90, forse 95, forse 2000, adesso non mi ricordo la verità, ma comunque sia, ne ho trovato più di uno per la stazione fissa, capito? Tutto lì. Dai, buonanotte a tutti, dai. Ci risentiamo. E beh, Pompo, ma che antenna hai, che radio stai usando? Arrivi forte ai noghimi. Ho rubato un 140, Già va bene già. Ma mi hai chiesto l'amicizia in Facebook. Quando vuoi, chiedimi la ficina. Chiedimelo tu. L'amicizia su Facebook, non c'è problema. Ehi, io sono Capo Bianco, mi hai chiesto l'amicizia, te l'ho accettata. Ah, sai che, vabbè, adesso è passato un po' di tempo, tra una cosa e l'altra, quindi a un certo punto me ne sono dimenticato, quindi Capo Bianco, così è. Cappa Roge, Capo Bianco onorato, Gianni Sulinas. C'è la foto mia con una maglietta celeste e la scritta della Sardegna, o la adori o la ami, una cosa del genere mi è scritto. E su c'è la foto del Galaxy, mi sa. Ah, ok, ho capito che sei. Vabbè, non c'è problema. Tranquillo, vedrai che ti chiedo un'amicizia, a me lo parliamo tutti i giorni, parliamo. Andavè, come ti arrivo io? Fa un passaggio. Prova, 1, 2, 3, prova, Gianni da Sorso, San Pi. San Pi, sì, 9.30 qua, taglio 5. Buono, sono a tutto full gas. Bene, ti arrivo io, San Pi. Fa un passaggio. 1, 2, 3, prova. Radio 5, però segnale 7. Questo pure amare, così poco è. Ehi, deve essere che se guardo dalle dacca e blu da riva, deve essere passato anche più cravo. Chissà te, la noi andiamo in onda. Hai visto? Ci hai rimesso. Vabbè, non fa niente, dai, non c'è problema. Alto! Passa la marina di Sosso, ne mostro un albero di vino di chi si giovane e denna risetto tu mezzi e collega giro un viro e ti vai l'antenna di Pino Silvestro. Tanto ci andiamo assieme alla marina di Sosso, cosa dici tu? Oh yeah, da chi fila? Dai. Quello che sono calattidosso avrei dovuto arrivare più forte io che tu, No, sto dicendo, ho detto, lui in questi giorni ci andiamo assieme, ho detto, a fargli visita, ho detto, a Maria del Sosso, andiamo lì, ci presentiamo, eccetera, eccetera. Intanto a Sosso ci sono rimasti solamente due, non di più, il discorso è quello. Tutto di Timanni in Sosso, Io Sosso. Non ti preoccupare. Forza di la camera d'aria, che se no ne ti fa tenere l'antenna tutta dretta dretta. Col cazzo mi fanno avere l'antenna. Ci avevo fatto la magnetica per quello. E allora, se no una di chi si attacco rapido, attacca e stacca e necco e per attacca a culo direttamente. Senti, Anto, quando mettiamo l'antenna bisogna che attacchiamo e stacchiamo, sennò cazzo se la portano via. Anto, ma la cubescuria si è assardo, no? Mi chi fai la iatta pare controllando i canali? La iatta pare? Ehi, già. No, già arrivo io. Cioè, però mi mai sono che buon dalla samba se la zindai. Io sono con galatti dozzi. Abbiamo dovuto arrivare più forti io, ho detto. Compreso? Ehi, magari sono io che ho qualche angolo chiuso. Però Pomponio mi arriva forte. Tu mi arrivi forte lo stesso, però il segnale è un pochino più basso. Però sei molto comprensibile, no? Niente di che. E io mi ho attaccato, il 68 piccolino e il 131 attaccato adesso, il BV. E niente, tutto qua. Ok, già arrivi bene già. E impegnendo comente una Vespa 125 primavera elaborata. Ma fatta, dura è fatta. Mannaggia, io oggi sono un bel avvelenato, sono un bel nervoso. Ero a fare terapia, sa se rimane buccato lì pratica che tre vulchi da pagare, sai di che l'ha fatti. Già lo so già. Delinquenti, tutti quanti gli seduttori, tutti ladri e le donne, tutte puttane. E cosa te l'ha fatto? I buchi te l'ha fatto. I buchi? E non solo, ero in autoambulanza. Classico che c'aveva il disco della frizione bruciata. Pupo, non si budi a cane questa macchina, non si budi a cane. Delinquenti, tutti delinquenti. Guarda, sono arrivato a Sosso quasi alle 3. Quasi alle 3 parì un dannato che si aveva di una cetra vi paccato un gabbo in due a chissi. Esagerato. E che sono un tipo mingherlino, gricidino, come ho avuto io un problema alla schiena, a me mi hanno operato la schiena 10 anni fa e non è cammino, però devo andare a fare la terapia di trasfusione perché sono talassemico e quindi ogni 20 giorni, ogni 25, dipende da com'è il sangue. Da antepieno usi battuglio, allora devo andare a fare il fornimento, ma quello non mi ha dato mai nessun problema, nessuna cosa. Il problema è quando mi hanno toccato la schiena, che mi hanno fatto temere, che mi dovevo operare, che bum bum bam, e quindi io mi sono affiffato, non ho fatto l'intervento, ma si è avvato, dalla lì sono sempre a dolore, già che meglio non cammino, mi si gonfiano le gambe e divento mancante, comincio a sclerare a assaggiare che meglio, vince di doppio il vino. E niente, se poi c'ho un po' di frasca mi faccio una sigaretta e mi calmo e mi figoco. Ah, se quello è un discorso di prezzo, la verità ti do, non posso dirti nient'altro la verità, comunque sia, io mi auguro che guarisci cosa c'è, la verità, Se no prima ero un razzetto, una dana di muro ero prima, e ogni rogo ero io, una macchina a ruia, tutta Sport Production, con la scritta Cobra da Rido, ero gozo, Cobra 77, andavo in raduni ad ogni rogo, e poco mi divertivo. Da quando mi guardo che sono disraziato di Doria, di questo dottore bastardo, anche i ragazzi hanno fracassato in un campo di cartoffie e tutto quanto il faccio raffiato, bastardo, mi ha rovinato la vita tu. Purtroppo è così, lo sai che capita a volte che tu vedi cazzo, i medici cazzo che non servono un cazzo, come è capitato anche a me, la verità, una autoressa, una stronza, ho preso, l'ho chiamata a fanculo, ce l'ho mandata. Io lo so. Allora io ho attaccato tutto il radio e tanti esilti perché quando ero ragazzino ce l'avevo. Ho conosciuto a Alfa Verde, a povero Pietro Braccio di Ferro, poi c'era Albatros, poi chi c'era Papa Tango, e vero obbedienti, adesso non lo so chi c'è più. E io mi chiamavo, all'epoca mi chiamavo Piedi di Piombo, e infatti a Villaggio di Piombo. Hai fatto bene, è veramente fatto bene, a un certo punto. Grazie, ma sono un bel impedito. Ho giusto la forza di alzarmi da una sedia e di sedermi nell'altra sedia, oppure di sdraiarmi nel letto, perché mi ho comprato quella sedia tipo da videogioco, e cammino con quella lì piano piano, perché con la sedia a rotelle dentro casa viene male, perché la mia schiena non mantiene, se muovo le ruote mi dronco in due, e poi non ci sono gli spazi adeguati per poter girare, fare, invece con la sedietta sono un po' più tranquillo. Quando sono a dolori che mi stanco, saluto a tutti e mi si do raccucare. Vabbè, ma come... ci sono, come si dice, quelli agenti che vendono i cinesi a un certo punto per le ginocchia e cosa del genere, c'è presente? Sì. Ma il discorso, lo sai cos'è, Pupu? Il discorso è che oramai ho i nervi talmente delicati e teneri che mi fanno male, anche quando piove o tira vento me ne butta giù dal letto, perché quel vento, come ti diceva la canzone di Gozo, agita anche me, tutti i nervi me ne cura in terra. Ah, vabbè, ma comunque sia, ho visto che quegli affari funzionano bene, quelli per le gambe, la verità, a un certo punto, poi non lo so, magari non funzioneranno quello che è, ma a un certo punto basta provarli, non so cosa dirti, la verità, anche Giampiero, mio fratello è peggio, quindi a un certo punto adesso vedremo un po', se potrò usare, E quando non è così è un casino è pompo, perché si determinato a fare solo piccole cose e ti viene tutto male, si, ti si abbassa la vita perché i dolori comprimono i nervi, è un casino, un casino. E per fortuna che vivo con i miei genitori, se noi russato via molto io, via molto russato. Ho capito, se è peggio di mio fratello, ho capito. Comunque, come antenna c'ho una Game Master. Game Master si chiama quella, Game Master. Ascolta, ma quello è l'amico che... Che amico? Quello che era lì a Soso, all'inizio di Soso, che cazzo di fine ha fatto quel camionista? Sparito, ecco. Ma chi? Giovanni Stanco? Boh, mi sembra di sì, adesso non mi ricordo più come si chiama, la verità, ha avuto, cioè, c'era l'apparecchio, eccetera, eccetera, faceva il camionista, eccetera, eccetera, poi è sparito, cazzo, era in un fosso, era. E mi ha detto che stava piazzando tutto in una roulotte che aveva in campagna e non lo so se ha piazzato tutto e niente. E poi il giorno c'era anche Gianfranco la scimmia, non so come accogliere, ha detto che era nato là in Burbigliano delle Banane. Quindi in pratica è parito, E magari come sta facendo brutto tempo e cosa gli viene male a lavorarci, capito? E magari ha mollato tutto, però qualche volta sabato e la domenica già entra. Sono mancato quasi 10 anni, una cosa del genere, non ho più sentito da 10 anni io. Gaffa. E niente, io abito a Sosso, nella zona alta, sotto a Franco, quindi magari per quello che funziona un po' di più a livello di trasmissione, però secondo chi c'è in ricezione da lontano non lo sento. Ho capito. Vabbè, ok, vuol dire che... cercherò di... piano piano, ricercarlo, cosa vuoi dedicare io? Oh, mi voglio comprare, mi voglio comprare questo Icom 7300, buono Canto sei buono, ha voglia, e se no mi un bel 140, ti va bene, ha voglia, c'è anche di cosa, c'è anche lo so a Vieno, c'è un bel 140, te lo prendi, 300 euro, e sei a posto. Gaffa, tanto lì posso entrare anche nella 27, così, in AM e in FM. Esatto, sì, bravo. E adesso vedo a Pasqua, a Pasquetta, e mi porto un regalo, non me ne frega niente. A usare il radio che va giù lì, sì, Alan 48, Alan 68, venna giù anche 10 o 12, tutti quanti disegnati con adesivi. Quello che sto usando adesso c'è il frontalino di Che Guevara, con il microfono c'è un MB+4 ed è completo di staffa, altoparlantino esterno, tutto beh. Ah vabbè, non c'è nessun problema, già lo sai. Guarda, io sto usando il 140, sto usando io, quello che sto usando io, sto usando il 140. Bene, va, forte arriva. Ah, per quello, te lo sto dicendo per quello. Pigliati uno di questi e sei a posto. Non devi usare un cazzo di niente a un certo punto. Tanto, chiedi a Claudio, ne ha uno, ne ha. Quindi chiedi a Claudio, te lo fai dare e va a far cuffia. No, sei tranquillo, beato. È vergine. Ma Claudio, quello di Usilo? No, di Sassari, non di Usilo. Ah, K, e se mi capita glielo chiedo. C'era stasera, c'era, cazzo, potevi chiederlo stasera, chiedilo, Carlo, basta che lo chiedo, Carlo Spazviero, Ne ha uno ne ha, di quei 140, quindi nuovo. È un ICOM 140. Non è un ICOM, è un Kenwood 140. Ah, è KK. Luce, avanti chiudo il lineare tutto, ma ammattendo me, agendo per avvento l'annello e me, barrendo. D'accordo, non c'è problema. Così mi ne approfitto, mi faccio una sigaretta e mi rilasso di nuovo altri 5-10 minuti, se no mi si appesantiscono le gambe e tocca parrarmi il gatto con un esogo con tutti quanti i miei demoni. Già sei a posto già allora. Se te lo sto dicendo, molte volte la notte quando mi sviglio alle 4 di sovrassalto, lui adesso ne bareggia, da voi non comprendo io, non comprendo che sono tranquillo, cazzo mi vengono i crampi tipo ai polpacci e alla schiena, me ne butta in terra, e quando me ne butta in terra così mi o come se ne appaeva, o se pisene il vento, o vescirocco. Ah beh, quello già è vero, la verità. Va bene, non c'è problema. Ehi, magari ci sentiamo dopo. Ciao, Pompu. Mi ha fatto piacere fare questa piccola discussione. Andà bene, magari se ci sei dopo, se no già ci sentiamo alle prossime. Andà bene. E saluto anche Antonio se mi sta ascoltando. D'accordo, non c'è problema. A dopo, dai, ci sentiamo. Al limite, a sabato, se ve la Claudio glielo dico, così ti faccio chiamare, così almeno sei a posto e mi mettete d'accordo. E, una volta che vi vedete, fate lo scambio, non c'è problema. Ciao, buonanotte a tutti. E Beato. Io mi sto addormentando, buonanotte. Ho capito. Io mi sto addormentando, papà. Un stanco, buonanotte. Ah, ok, da, va bene. Mi sono sistemato il coso, qui a posto. Ci siamo domani mattina, là. Buona. Comunque di buon tutto, tanto che stai dormendo, ci vediamo domani mattina, ok, d'accordo. Io controllo bene, però che non mi fido. Ok, va bene, non c'è problema. A domani mattina, ciao, buonanotte, buon tutto, tanto. Ciao. Ciao.